Letture di Radio 24. Negli Stati Uniti il servizio postale rischia il fallimento. Complice la crisi economica, le e-mail hanno sostituito la tradizionale corrispondenza cartacea, mettendo l'intero sistema a dura prova. Una naturale evoluzione dovuta alla tecnologia? Probabilmente sì, ma sono migliaia i posti di lavoro a rischio. I postini americani rischiano di diventare una marcord per mancanza di lettere da consegnare. Nell'ultimo anno buste e pacchi sono diminuiti di 3 miliardi rispetto al 2010 e adesso, con perdite pari a 5,1 miliardi di dollari nell'esercizio finanziario appena trascorso, le poste americane temono di fallire nei prossimi 12 mesi se il governo non interverrà. Il rallentamento è ovviamente dovuto alla sempre più diffusa email, che ha contribuito a far calare i ricavi della posta prioritaria del 5,8% nell'ultimo anno e del 22% dal 2006. L'altro elemento a incidere negativamente sulle caste del Postal Service è la concorrenza dei grintosi servizi privati, senza contare l'impatto della crisi economica. La disoccupazione ridimensiona i budget delle famiglie e le spedizioni diminuiscono. Per arginare il deficit, la dirigenza delle poste ha annunciato tagli decisi. Intende abolire le consegne del sabato e chiudere uffici in 3.700 città, licenziando 120.000 impiegati tra portalettere e burocrati, circa un quinto della forza lavoro. Ma questa granitica ricetta potrebbe non bastare neppure. La posta lumaca, come si chiama familiarmente in inglese la corrispondenza cartacea, corre contro il tempo per salvarsi. Come il telegrafo soppiantò il leggendario Pony Express 150 anni fa, così Internet ha messo a nudo l'anacronismo di questa macchina elefantiaca di 574.000 impiegati e 215.625 mezzi di trasporto, il parco veicoli civili più imponente del mondo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Damiano Beltrami «Il postino non suona più», dal numero di dicembre del mensile Il. Letture di Radio 24. Nato dalla penna di Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo, il personaggio di Sherlock Holmes continua a vivere nei racconti delle decine di scrittori che nel corso degli anni si sono ispirati alle avventure del detective più famoso del mondo. 14 di questi racconti, accomunati dalle atmosfere natalizie, vengono ora proposti per la prima volta in italiano nell'antologia Un Natale in Holmes, pubblicata dalla casa editrice Gargoyle. Tra i misteri che Sherlock Holmes è chiamato a risolvere, ce n'è uno anche che riguarda un albero di Natale. La storia inizia quando Holmes riceve la visita di Camber, guardiaboschi della tenuta del duca di Bolshire in Scozia, e di sua figlia Nancy, che parlando con il detective spiega le ragioni del problema che li assilla. Noi crediamo che abbia a che fare con il duca. Vedete, sua grazia trascorre a Londra il Natale ad anni alterni e quando è a Londra segue la tradizione che tanti hanno adottato in emulazione del defunto principe consorte. Fa posizionare nella sala principale dell'edificio un albero di Natale, sovrintende personalmente alle decorazioni e ai regali e lui stesso accende le candele. Come fate a sapere queste cose? Ho l'onore di essere la cameriera personale di Lady Caroline, la figlia maggiore di Sua Grazia. Capisco. E proseguite, per favore. Negli anni in cui Sua Grazia trascorre le feste a Londra, è sua consuetudine farsi spedire in città un albero dalla propria tenuta per farlo decorare. Una settimana circa prima di Natale, mio padre seleziona l'albero più robusto e simmetrico, di dimensioni appropriate, nell'ampia gamma di abeti scozzesi che crescono sulla sua tenuta. Quindi prende tutte le precauzioni per la preservazione dell'albero durante il trasporto, una cosa che io non comprendo, temo. Il boscaiolo scosse la testa in un gesto di rinuncia. Terra e ghiaccio in strati alterni, con juta in mezzo e tela all'esterno. Niente di complicato. Mi schiarii la gola. I meccanismi della mente esperta, commentai, sembrano forse elementari a chi li concepisce, ma non sempre appaiono tali a quelli che mancano dell'esperienza. Erano anni che desideravo dirlo. Grazie, dottore. Avete espresso un pensiero che non ero mai riuscita ad articolare. In ogni caso, mio padre fece il solito viaggio nei boschi, segnò l'albero da abbattere, poi andò alla stazione ferroviaria e fece preparare una cassa nella quale spedirlo. «Dritto e ben sorretto», aggiunse Joseph Camber risoluto, «in modo che i rami non si potessero rovinare». Ma il giorno dopo, quando andò con il cavallo e la slitta a tagliarlo per portarlo via... «Non c'era più», la interruppe Camber. «Quel dannato pino era sparito. Voglio dire, va bene rubare, ma non ho mai sentito di qualcuno così stupido da rubare un albero». «C'è comunque una ragione per cui qualcuno possa voler commettere un furto del genere?» Camber scosse la testa. «Mi sono consumato il cervello proprio a pensare questo, signor Holmes. Il pino non è buono come legna da ardere. Troppa resina, fumo acre su per la canna fumaria. Puoi farci buona mobilia, sia pure rozza, ma non da un albero abbastanza piccolo da tenere in casa». «Dite di aver segnato l'albero. In che modo?» «Ho fatto una piccola tacca nel tronco, ad altezza uomo. È facile scorgerla se sai cosa cercare, ma non rovina le sue caratteristiche decorative. Ecco». «Cosa avete fatto quando avete scoperto che l'albero era sparito?» «Beh, ve lo dico subito, signor Holmes. Ho sprecato un bel po' di tempo ad andare avanti e indietro fra una grattata di testa e una bestemmia. Quando finalmente ho smesso, ho fatto l'unica cosa che potevo. Ho cercato il migliore albero che potevo, l'ho tagliato e l'ho spedito». «Signor Camber, il vostro caso presenta degli elementi interessanti e penso...» «Oh, per favore, signor Holmes, perdonatemi per l'interruzione, ma non siamo ancora arrivati alla parte misteriosa». «Oh, se non avete obiezioni, vorrei fumare. Continuate, prego». «Vedete, signore, convinsi mio padre a venire a Londra per passare il Natale con me. Lui è molto amico di McBurney, il valletto del duca, e Sua Grazia è piuttosto affezionato a mio padre, per cui non c'erano problemi a sistemare papà nella stanza di McBurney e a farlo unire al pranzo di Natale dei domestici». «Allora presi la decisione. Per anni sono stato a tagliare alberi, ma non ne avevo mai visto uno sistemato. Ho pensato che quella fosse la mia unica occasione per vederlo. Così Nancy e McBurney sono riusciti a convincere il maggiordomo, un inglese di nome Havering, e lui mi ha fatto entrare nella sala dove era l'albero». «La sala viene tenuta chiusa prima della vigilia di Natale e non vi si accende nessun fuoco fino ad allora, per far sì che l'albero rimanga fresco. Papà entrò e...» «Era l'albero scomparso, proprio quello che era stato rubato in Scozia». «Come potete esserne sicuro, signor Camber? Il vostro segno, dopo tutto, potrebbe essere stato imitato». «Dottor Watson, siete un medico?» «Sì». «Fate nascere i bambini, allora?» «Frequentemente». «Avete mai fatto nascere più di un bambino in un giorno?» «Naturalmente». «E se alla fine della giornata qualcuno vi avesse mostrato uno dei bambini, avreste potuto dire qual era?» «Ovvio». «Beh, dottor Watson, gli alberi sono i miei bambini. Li pianto quando è necessario e li taglio quando devono essere tagliati. Li controllo e mi prendo cura di loro e passo la mia vita in mezzo ad essi. Ho studiato bene quell'albero prima di sceglierlo. Posso giurare che è lo stesso che ho visto in quella sala». «Allora daremo questo punto per assodato, signor Camber. Avete qualche idea su cosa possa essere accaduto all'albero che avete tagliato e spedito?» «Nemmeno un barlume». «Signorina Camber?» «Io? Non ne ho proprio idea. Sono semplicemente preoccupata che qualcuno stia attuando una specie di gioco sgradevole con mio padre, cercando di rovinare il bel rapporto che lui e la famiglia di Sua Grazia hanno sempre avuto». «Penso che questa roba sia peggio di uno scherzo. È troppo costoso per essere uno scherzo, anche per gente danarosa. Penso che si tratti di una specie di complotto contro Sua Grazia. Lui è un pezzo grosso nei circoli diplomatici, sapete?» «Sì! La natura insolita di questo enigma è piuttosto eccitante. Investigherò, signor Camber, e vi comunicherò i risultati al più presto. Rimarrete entrambi nella residenza del duca in Onslow Square? Bene». «Beh, signor Holmes, io non sono un uomo ricco». «Non preoccupatevi di questo, signor Camber. Vi lascerò abbastanza per un pezzo di pane e il biglietto di ritorno in Scozia. Andate pure. Lieto di avervi conosciuta, signorina Camber». Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal racconto di William L. De Andrea, L'avventura dell'albero di Natale, dal libro Un Natale in Holmes, Gargoyle Editore, 328 pagine, 16 euro. Quella costituita da Osvaldo Valenti e Luisa Ferida è stata probabilmente la coppia di attori più famosa nel cinema dei telefoni bianchi. Accusati di collaborazionismo con la Decima Massa e in particolare con la feroce banda di Pietro Koch, i due attori vennero fucilati dai partigiani 5 giorni dopo la liberazione. La Ferida era al 4° mese di gravidanza. Solo in seguito si scoprirà che le accuse erano completamente prive di fondamento e ancora oggi rimangono ancora molti punti da chiarire su quel delitto. Alla storia di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida è dedicato il libro Gioco perverso di Italo Moscati, che prende in esame soprattutto gli ultimi anni di vita della coppia, fino alla cattura da parte dei partigiani, che per cercare di strappare da Osvaldo una confessione, organizzarono un finto processo. I partigiani avevano davanti un eroe umile che orgogliosamente alzava la testa e invocava clemenza, un essere smarrito che, seppur confusamente, doveva aver colto i segnali della fine. In fondo, il processo fu uno spettacolo crudele per tutti coloro che vi parteciparono, e per uscire da quella crudeltà, consumata come una droga, i partigiani chiesero a Osvaldo di scrivere un memoriale che sarebbe stato portato al comando generale delle Brigate Matteotti. Che cosa conteneva il memoriale? Franco Bandini, nella penultima puntata della sua famosa inchiesta del 1956 per l'Europeo, scrisse che i partigiani provavano un forte disagio, un disagio che proveniva esclusivamente dalla mancanza quasi totale di prove nei riguardi della presunta attività criminale di Valenti. Accuse specifiche non ce n'erano, e quelle poche che si erano potute muovere avevano provocato una serie di rivelazioni da parte dell'accusato che almeno occorreva controllare. Osvaldo aveva fatto i nomi di persone salvate e proprio a Villa Triste. Si poteva non credergli, ma era indiscutibile che egli si era consegnato spontaneamente ai partigiani. Questo fatto imponeva alcune cautele. Ma chi aveva fatto il processo a Osvaldo, aggiunse Bandini, se ne lavò le mani e non prestò fede alle ultime parole del memoriale, in cui l'attore giurava di non aver commesso atti crudeli e infamie e di aver chiesto di collaborare con i partigiani solo per evitare spargimenti di sangue, invocando comprensione, poiché si potevano avere ideali diversi e sentire per l'avversario il più accanito rispetto per la sua persona fisica e per le sue idee. Il lungo labirinto inghiottì anche il memoriale. Sandro Faini, comandante della piazza di Milano, i cui uomini catturarono durante la liberazione quasi tutti i più importanti esponenti fascisti, presente al processo alla cascina, portò quelle pagine così sofferte a Corrado Bonfantini, un altro capo partigiano che lavorava a stretto contatto con Pertini. Testimonia Bandini. Bonfantini si infilò in tasca quei 4 foglietti in cui stavano tutte le speranze di Valenti. Per quanto indirettamente sappiamo, la stessa scena si ripeté tra Bonfantini e Pertini, rifiutandosi assolutamente quest'ultimo di prendere in consegna il memoriale. Prenderlo voleva dire leggerlo, e leggerlo significava entrare nel merito della questione secondaria, se Valenti fosse o meno consapevole delle atrocità che gli si imputavano. Valenti era un ufficiale della Decima Massa, questo bastava. La sera del 21 aprile il CLN si riunì nuovamente e prese in esame anche la questione di Valenti. La decisione fu la stessa delle volte precedenti: fucilazione immediata. Fu una strana spedizione quella alla cascina, dove con una raffica di mitra sarebbe stato facile eliminare i due attori. L'assedio alla coppia fu ingannevole, stemperato e violento. Era ingannevole l'assedio, perché Marozin non poteva, né avrebbe mai potuto, tornare indietro. Aveva avuto un mandato preciso e prima o poi l'avrebbe eseguito. Andò ancora alla cascina, ma per farsi consegnare quattrini e gioielli della coppia. Per questo, nel dopoguerra fu accusato di essersene appropriato, ma ben 2 sentenze lo scagionarono. Era stemperato il lungo assedio, perché i giorni trascorrevano lentamente e perché sembrava che non stesse prendendo corpo nulla di certo, di definitivo. L'angoscia si diluiva in chiacchiere con i rossi e i partigiani, e di tanto in tanto qualcuno partiva dalla cascina per acquistare fazzoletti, calze, un rossetto, piccole cose che servivano a Luisa. Ed era violento questo assedio senza battaglie, perché i messaggi della morte che non si decideva a venire si susseguivano a lenti ma forti rintocchi. La coppia venne costretta a salire su un camion, sul quale c'erano altri due condannati, mentre sette partigiani svolgevano la sorveglianza. Durante il tragitto furono udite due frasi. Luisa ripeteva disperatamente: «Non voglio morire, non voglio morire». Osvaldo le rispose: «Luisina, nella vita e nella morte insieme». Il camion giunse in corso Sempione e si fermò poco dopo, in via Poliziano. Erano le 23:45 circa. Osvaldo e Luisa vennero spinti verso il marciapiede. Romano Bracalini, nella sua narrazione, conclude: «I fari illuminarono un tratto della strada davanti al numero 15. Osvaldo mise un braccio sulle spalle di Luisa e si voltarono salendo il marciapiede. Si udì il comando e una raffica di mitra. Osvaldo e Luisa caddero l'uno sull'altro, scomparendo alla luce degli abbaglianti, e nel silenzio il buio inghiottì l'ultima scena. Forse, come lascia intendere la storia del loro amore, Osvaldo e Luisa riuscirono a essere nella vita, semplicemente e inconsapevolmente, gli attori che erano stati sullo schermo. Diventarono, e restano, i personaggi principali di un melodramma nero che ha iniziato con le musiche e le atmosfere allegre del cinema dei Telefoni Bianchi. I personaggi che nella Roma del 1940 frequentavano feste in cui gli invitati portavano maschere antigas per giocare alla guerra in arrivo. Italiani più in vista tra gli italiani che forse, come aveva detto Alberto Savinio, erano bisognosi di entusiasmo e di speranza. Non si può rimproverarli per averla cercata talvolta in maniera sbagliata, né si può deriderli perché se ne risvegliano tardi. È il loro dramma ed è il dramma di questo paese. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Italo Moscati, Gioco perverso, la vera storia di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, tra Cinecittà e Guerra Civile. Lindau Editore, 280 pagine, 21 euro.